9 in punto. Apriamo così, care ascoltatrici e cari ascoltatori, buona giornata, un regalo per gli amanti dei Pink Floyd, io sono tra loro, questa è Echoes dei Pink Floyd, eseguita dove? Eseguita in Live at Pompeii. Cosa fecero i Pink Floyd nel 1974? Il protagonista della storia in realtà è il regista di Live at Pompeii, Adrian Maben, che tramite quello che possiamo chiamare un sotterfugio, perché insomma si era fatto amico uno degli uomini della sovrintendenza, fece chiudere l'anfiteatro di Pompeii per 8 giorni, nel quale si effettuarono le riprese appunto di questo concerto dei Pink Floyd. In qualche maniera, se volete, naturalmente, un'operazione completamente diversa, per carità di Dio, però, insomma, la vicenda di Firenze, della chiusura di Ponte Vecchio, mi ha riportato alla memoria questo episodio. Vale la pena, no? Per sentirsi un po' di musica buona. Sara Biagiotti, assessore al turismo e allo sviluppo economico di Firenze, buongiorno. Buongiorno. E buongiorno ad Ornella De Zordo, che è consigliere comunale a Firenze, la lista è per un'altra città, quindi abbiamo le due posizioni opposte, come avrete già intuito. Buongiorno, buongiorno De Zordo. Buongiorno a voi. Ma cosa c'è che non va? Lo ribadisco, perché prima abbiamo fatto l'introduzione, lo ribadisco per gli altri ascoltatori, cosa è successo, di cosa stiamo parlando, della vicenda dell'affitto di Ponte Vecchio da parte della Ferrari per una festa, e la chiusura dello stesso Ponte Vecchio a Firenze per 5 ore, 6 ore, quanto è stato, per un prezzo di 100.000 euro che finiscono nelle casse della città, più 20.000 per il restauro di un monumento nel chiostro di Santa Maria Novella. Cosa c'è che non va, De Zordo? Ora, distinguiamo le iniziative lodevoli dei privati che in tutto il mondo contribuiscono a mantenere, adottano, no? Come si dice in termini un po' anglosassoni, insomma, o un documento, o un monumento, o qualcosa, perché contribuiscono al restauro di monumenti. Io dico, questo è un livello che non interessa il cuore della questione di cui stiamo parlando assolutamente, perché qui il punto è il fatto che ci sia un'amministrazione, un sindaco, che ritiene che delle parti, delle porzioni di città possano essere chiuse completamente al passaggio, anche finanche dei pedoni, anche dei mezzi di soccorso, perché questo è poi quello che è successo, perché e senza preavviso mettono delle belle barriere di qua e di là dal famoso Ponte Zemolo, per l'appunto, e per una cena privata. È questo che non va, è proprio l'idea che uno spazio pubblico possa essere affittato e diventare quello che appunto nel linguaggio, diciamo così, renziano, è diventata una location. Ecco, lo spazio è pubblico e l'amministrazione dovrebbe incentivare la fruizione pubblica e certamente anche, per carità, incentivare i visitatori, cercare di, ma non chiudendo per una festa privata. E dunque, come capite, non è questione di chi era il privato, poteva essere sì, chiama questo, ma guardi che questo, no? Guardi, Zordo, questo l'abbiamo capito, poi certo. Ce l'ha detta lei, se non sbaglio, prima di realizzare la trasmissione, la battuta Ponte Zemolo, sì, che abbiamo capito, l'ho captata, sì, l'ho proprio captata. Sì. Allora, sarà un monumento, sì. Ponte Vecchio, sì, dire, sì, non sì, è una lo sappiamo. Anche l'anfiteatro di Pompei è un monumento. Sara Biagiotti, dunque, invece, perché avete fatto questa scelta? Perché la ritenete opportuna? A questo punto le chiedo innanzitutto dal punto di vista ideale, perché poi, insomma, dal punto di vista delle casse del comune mi sembra non ci siano proprio dubbi che sia stata una scelta giusta. Dal punto di vista ideale, perché ritenete che una cosa di questo genere sia corretta? Sì, buongiorno. Innanzitutto mi domando come mai la consigliera De Zordo non si sia stracciata le vesti nel 2006 quando fu fatto un evento simile per la cena con sfilata di Roberto Cavalli, che è uno stilista molto famoso della città, della nostra città, e famoso nel mondo. E quindi solo oggi si stracci le vesti di fronte a questo evento, quindi uno si potrebbe fare queste domande. E quindi quando c'è stato l'evento di Lucio Dalla, che era un concerto sul Ponte Vecchio, vecchio, anche lì furono fatti gli eventi, quindi ci si domanda come mai proprio ora. Ma a parte queste considerazioni e queste domande, io credo che Firenze, legare Firenze e promuovere Firenze nel mondo attraverso il marchio più conosciuto nel mondo come marchio italiano sia solo un fattore positivo. Ricordiamo che l'evento della Ferrari, della top client della Ferrari, il primo marchio nel mondo, ha avuto una durata di 4 giorni, da mercoledì a domenica, e ha visto diverse iniziative. Ha visto presenze di 200 persone in città che hanno vissuto la città, hanno alloggiato negli alberghi della città dove ci lavorano cittadini di Firenze, residenti a Firenze, che vengono quindi manutenuti, gestiti da aziende fiorentine e quindi danno lavoro a Firenze. Inoltre tutto questo si concilia con un valore che Firenze ha nel mondo, e quindi promuovere la nostra città alla fine del di Pitti, che è un evento importantissimo per la nostra città, che vede a Firenze un numero enorme di visitatori che vengono proprio da noi per le nostre eccellenze, per vedere la nostra città, e quindi coniugare questo con un evento di rilevanza mondiale come quello delle top client della Ferrari, io non credo che sia un fattore di danno per Firenze, ma anzi un fattore di lustro per la città e per tutti i fiorentini e per i lavoratori e le aziende del territorio. Allora, Biagiotti, sì. Questo è il suo punto. Io sentivo... Questo? Posso dire una cosa? Sì, sì, aspetti un attimo, con calma, Zordo. Ma io sono calmissima. No, nel senso, calma intendo... È bella un po' la diretta, sì, no? Sì, assolutamente, con calma intendo che la faccio rispondere, ma prima le faccio una domanda io. Nel senso, io sentivo di sottofondo lei che diceva, ma quello di Lucio Dalla era un concerto. Io però non riesco a cogliere esattamente... Chiaro che colgo la differenza tra un concerto e una festa di top client Ferrari, perché non sono pazzo, e però non riesco a cogliere la differenza dal punto di vista del prestigio, dell'importanza per la città e della forza che può dare come marchio alla città una vicenda di questo genere rispetto ad un concerto di Lucio Dalla. Non riesco a cogliere questa differenza, davvero. Se me la spiega, prego, forse, prego, allora, come no? Allora, su questo in particolare mi pare che uno è un evento pubblico, cioè il concerto è qualcosa che si fa in tutte le piazze del mondo, possono anche essere appunto chiuse in certi casi se gli spazi lo consentono o lo richiedono, sono scelte dell'amministrazione, chi vuole si compra il biglietto e va. Qui era una cena di un gruppo di persone private, cioè era un privato che aveva affittato uno spazio pubblico, quindi la differenza è proprio questa, è la concezione che si ha di quello che è lo spazio pubblico. Ripeto, concerti o altri eventi pubblici, anche a pagamento, sono la cosa banale, più vecchia del mondo, si fanno, e francamente c'è proprio una grande differenza tra quello che si affitta, che si prende per, si compra per 8 ore o 9 ore, quello che sono, quello spazio, in cui nessuno, anche volendo, ripeto, ma insomma in questo caso voglio dire molte... De Zordo, la stiamo perdendo, si metta in un posto dove il cellulare prende bene. Guardi, facciamo così. Intanto saluto Matteo Caroli, docente di economia e gestione delle imprese alla Luis Guido Carli di Roma. Buongiorno Caroli. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Abbiamo captato anche un suo tweet nel quale diceva: è un ottimo esempio di valorizzazione del patrimonio pubblico. Sì, ma guardi, io intanto la ringrazio per aver ricordato quel bellissimo concerto che è stato un esempio ante litteram, perché appunto ormai di 40 anni fa, appunto di una utilizzazione efficace di uno spazio molto evocativo. Esatto, poi ricordiamo sempre che si chiama Live at Pompeii, ma non è un concerto, in realtà è un film, e quindi ci sono i Pink Floyd che suonano in questo anfiteatro deserto, una scena meravigliosa, andatevelo a cercare anche su YouTube se vi capita. Prego. Allora, prego, io vorrei un attimino spostare il ragionamento dal fatto specifico, perché noi oggi abbiamo, e credo che questo sia in dubbio, un enorme problema di valorizzazione e di mantenimento dei nostri beni culturali, innanzitutto affinché questi beni culturali svolgano la loro funzione primaria, che non è il turismo o altro, ma è la diffusione della cultura. Perché nel momento in cui non siamo in grado, per ragioni oggettive, tenere aperti i musei, di tenerli aperti in maniera efficiente, noi stiamo venendo meno alla funzione primaria di un bene culturale. Di fronte a questo c'è, ed è questo è altrettanto oggettivo, l'esigenza, la necessità di trovare il modo di coniugare gli obiettivi di natura appunto culturale, sociale dei beni culturali con obiettivi di natura economica, perché peraltro credo che sia ovvio, ma forse è bene ricordarlo, che anche il semplice mantenimento, la conservazione di un bene culturale è costosa ed è molto costosa e le risorse disponibili sono inevitabilmente sempre di meno. Allora la necessità di coinvolgere in maniera intelligente risorse private è fondamentale. L'esperienza, citiamo un'altra esperienza molto discussa, che è quella del Colosseo a Roma, finalmente risolta, in cui un soggetto privato si è reso disponibile a realizzare un restauro fondamentale senza il quale, nonostante le difficoltà di questi giorni, il Colosseo rischiava di diventare poco fruibile a livello internazionale. Allora il tema è come fare in modo che nel mantenimento degli obiettivi, che ripeto sono innanzitutto sociali e culturali, di un bene culturale, e io associo un pezzo di territorio particolare come Ponte Vecchio evidentemente a un bene culturale, possano essere coniugati con obiettivi di natura economica, e questo è senz'altro possibile. Io mi occupo, nella mia attività di ricerca sono molto su questo punto, abbiamo esperienze internazionali numerosissime in cui questa interazione efficace tra cultura ed economia si può attuare. La logica è quindi quella sostanzialmente di vedere il bene culturale anche come un'offerta che può soddisfare una determinata domanda. Gli ospiti della Ferrari e la Ferrari stessa sono una domanda, sono soggetti che hanno domandato una fruizione esclusiva, non c'è dubbio, per poche ore di quel bene culturale. Questa domanda andava soddisfatto ovviamente ad un costo, e io, permettetemi di complimentarmi con l'amministrazione fiorentina, perché come dire 100 più 20.000 120.000 euro per non so 4-5 ore mi pare un costo notevole, cioè un prezzo adeguato per il sacrificio che indubbiamente sul piano concettuale e chissà forse anche materiale è stato imposto ai cittadini fiorentini di non poter passare per quelle ore su quel ponte. E quindi ecco, questi sono... Caroli, mi sembra che il suo punto sia chiaro. Intanto saluto il professor Tommaso Montanari, associato di storia dell'arte moderna all'Università degli Studi di Napoli, Federico II, e blogger sul fattoquotidiano.it. Buongiorno Montanari. Buongiorno a voi. Immagino che la sua posizione sia diversa, però prima di sentirla voglio leggervi qualche messaggio, alcuni dei messaggi che ci avete mandato e ci avete messo sulla nostra pagina Facebook. Allora, a Guido Emaldi, che scrive: fatto in questo modo sono favorevole, fatto come a Ravenna, dove è stato concesso l'utilizzo dei giardini pubblici per una festa privata ed è stato impedito di fatto per una sera l'accesso alla cittadinanza senza nemmeno avvisarla prima con i cartelli, diciamo che tra poco avremo il vice sindaco di Ravenna esattamente per parlare di questa vicenda qua. Molti favorevoli, devo dire la verità. Antonio Catani ci dice: favorevolissimo, se lo Stato non è in grado di valorizzare l'immenso patrimonio storico-artistico, discorso parallelo a quello che ci faceva il professor Caroli, che lo si faccia fare al privato, così smentiamo pure chi dice che con la cultura non si mangia. Si mangia e come, ma bisogna crederci e darsi da fare. Alessio Curto dice: lo scandalo, ritornando sul tema specifica, una tariffa di 100.000 euro per 5 ore, uno schiaffo alla miseria. È evidente che la classe dirigente di questo paese non ha il senso della misura, ma vabbè, insomma, qua ognuno, se c'ha i soldi e decide di pagare un determinato affitto, insomma, non mi sembra che sia quella la questione. Allora, professor Montanari, lei ha posizioni diverse da quelle di Caroli, credo. sì, profondamente diverse. Non credo che sia inevitabile che non ci siano fondi per mantenere il patrimonio, lo impone la Costituzione. Costituzione scritta in un periodo in cui l'Italia aveva problemi più seri di oggi, un paese da rifondare. Si pensò che il patrimonio e il paesaggio avessero un ruolo in un progetto di nazione, non un ruolo economico, ma un ruolo culturale e civile. E invece la visione di Renzi, che non emerge per la prima volta in Pontevecchio, ci sono molti precedenti, è completamente diverso. E anche da un punto di vista economico a me sembra perdente, perché c'è un progetto di una città che vive di rendita sul passato, una città che impegna a noleggio ai gioielli di famiglia, un'idea decaduta e completamente priva di progetto, un'idea petrolifera, sfruttare un giacimento, è infatti la metafora del patrimonio come petrolio d'Italia, è una metafora che ci accompagna, ahimè, da molti anni, che ha una grande fortuna in tempo craxiano e che dà l'idea di questo usare qualcosa di cui non abbiamo alcun merito e di cui non siamo neanche proprietari, siamo solo custodi, perché ci arriva dal passato, la dovremmo tramandare al futuro. Il problema non è solo un problema di tutela materiale, c'è anche questo problema. Però mi scusi, professor Montanari, la interrompo, la mia domanda è: ma se questi soldi, no, questo uso privato, chiamiamolo così, secondo quello che lei dice, secondo quello che ci diceva la De Zordo, se questo uso privato di un pezzo di territorio pubblico, un pezzo di patrimonio pubblico, consente appunto di tramandare al futuro, esattamente quello che ci consente di tramandare ai nostri posteri, di passare ai nostri posteri queste meraviglie che abbiamo, perché non sfruttare questo mezzo? Io non capisco. Perché non è l'unico modo, perché è un modo che nega il messaggio culturale. Noi diciamo che per continuare a far diffondere cultura al patrimonio neghiamo radicalmente il messaggio. Il messaggio culturale del patrimonio è che la città è uno spazio in cui non siamo clienti, ma siamo cittadini, in cui non siamo diseguali, ma siamo tendenzialmente uguali. L'articolo 9 è molto vicino all'articolo 3, che dice che la Repubblica ha il compito di rimuovere gli ostacoli all'eguaglianza. Invece in questo modo il patrimonio diventa un luogo letteralmente esclusivo, e infatti le cronache sono molto felici di definire Pontevecchio per quella sera esclusivo. Invece il patrimonio deve essere un luogo inclusivo, c'è un progetto di cittadinanza, c'è un progetto di eguaglianza, e il lusso non è un valore culturale, almeno dal mio punto di vista, e non lo è dal punto di vista della Costituzione italiana, senza dubbio. Allora, noi diciamo, siamo costretti a prostituire il patrimonio, dalla Costituzione alla prostituzione, perché siamo indigenti. In realtà non è vero, si tratta di politiche economiche. Il bilancio dei beni culturali è stato ridotto dal 2008 al 2013 ad un terzo, cosa che succede solo in Italia. Gli altri paesi europei non hanno tagliato sulla cultura, è una nostra scelta. Se noi scegliamo che la spesa militare sono 26 miliardi l'anno e il patrimonio è uno, naturalmente non propongo di fare 13 a 13, ne basterebbero 5, è una scelta, non possiamo dire che è una catastrofe naturale, un terremoto, un'alluvione, è una scelta politica. Dopodiché diciamo... Oddio, professore, mi sta ritirando fuori anche lei gli F-35, perché la cifra più o meno mi sembra... No, guardi, gli F-35 si sommerebbero a quella cifra, questa è la cifra ordinaria di spesa militare, gli F-35 sarebbero di più, questa è la spesa ordinaria. No, il passaggio dei soldi che ipotizzava per i beni culturali, però, vabbè, guardi... Allora, no, io le dico questo: un paese che investe 26 sulla spesa militare e 1 sul patrimonio non ha un grande futuro di grande potenza mondiale. Biagiotti è ancora con noi, vero? Biagiotti? Sì. È ancora con noi, perfetto. Allora, noi adesso abbiamo una pausa, ci dobbiamo fermare e poi la voglio risentire un attimo, perché qua arriva l'accusa di prostituire il territorio dal professor Montanari. 9 in punto. Ed eccoci di nuovo, care ascoltatrici e cari ascoltatori. Vi ricordo ancora una volta che questa puntata è registrata. Se state chiamando l'800 24 0024 non riuscirete ad intervenire. E però, ci sono arrivati ieri molti messaggi su Facebook, su questa vicenda. Ci dice per esempio Giuseppe Sciretta, dice: la scelta non è né giusta e né sbagliata, basta fare gli ultra, questo è il problema del nostro paese. Stiamo parlando appunto della di Pontevecchio a Firenze. Luca Cornetta: è giustissimo, non possiamo ridurci a museo a cielo aperto, perché il museo è il tempio di un passato senza futuro. Avere cura del nostro patrimonio e anche tenerlo vivo, anche attraverso una festa privata, metterlo a reddito rispettandone la storia, adeguarlo a nuovi usi e nuove esigenze. devo dirvi la verità, non li sto selezionando, nel senso che sono molti favorevoli, molti messaggi che ci arrivano favorevoli a questo, insomma non li sto scremando, tenendo fuori chi è di opinione contraria, perché ne stanno arrivando veramente pochi. Dunque, Sara Biagiotti, assessore al turismo e sviluppo economico di Firenze, dicono è un caso di prostituzione del territorio, del patrimonio pubblico. Io credo che queste affermazioni siano pesanti, frutto di una visione vecchia del nostro territorio, del nostro paese, ed è proprio una visione di questo tipo che ci ha portato ad essere nelle condizioni in cui siamo, dove la cultura non viene valorizzata e con la cultura invece noi potremo ottenere grandi risorse e grandi potenzialità. Pensiamo che tutti i musei italiani, almeno da quanto ho letto su alcuni quotidiani, incassano quanto il Louvre, tutti i musei italiani, quindi vuol dire noi non siamo in grado di mettere a profitto le nostre risorse, tutto quello che noi abbiamo, che è la nostra ricchezza. Questo non vuol dire prostituirla, questo vuol dire invece incentivarla, incentivare l'uso, incentivare la fruizione e mettere tutti quanti nelle condizioni di poter veramente cogliere le grandi e grandissime opportunità che ci sono e le grandissime ricchezze che noi abbiamo nel territorio. Noi pensiamo che l'anfiteatro, molti anfiteatri, il sito archeologico di Pompei sta cadendo a pezzi, noi stiamo perdendo parte importante del nostro patrimonio storico e artistico e continuiamo a fare discorsi filosofici quando da altre parti del mondo invece giustamente valorizzano tutto quello che hanno e che nei nostri confronti, devo dire, vivendo a Firenze, molto poco rispetto alle ricchezze che noi abbiamo. Quindi, come dire, queste visioni un po' retro non credo che siano, che facciano bene al nostro paese. Gian Antonio Mingozzi, vice sindaco di Ravenna, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. Che cosa avete fatto? Avete affittato i giardini pubblici? Che cosa avete fatto? Come ha funzionato? Per una festa privata anche voi? No, non è stato un cambio merce, è stata semplicemente la possibilità di ospitare una grande azienda che tra l'altro è diretta da un ravennate che vuole bene Ravenna e che ha deciso di fare una festa accorciando di un'ora il tempo di chiusura dei giardini e consentendo... Un'ora e mezza, sia sincero, un'ora e mezza. Un'ora e mezza. Un'ora e mezza. No, vabbè, insomma, per essere precisi, no? Sì, certo, considerando gli investimenti, ma fossero state anche tre ore, secondo me una volta all'anno è abbastanza sopportabile. L'argomento secondo me più efficace, che può essere anche utile per una valutazione in campo nazionale per altri comuni nella stessa situazione, è che questa azienda ha aderito al Ravenna Festival, è diventata socia e ci consente di fare una stagione che tra l'altro utilizza in un mese 25 giorni i giardini fino a mezzanotte, generalmente i giardini della Ravenna vengono chiusi alle 9 di sera, quindi diciamo è un circuito abbastanza favorevole che ci consente per un verso di riservare per una serata 800 dipendenti dell'azienda che provengono da tutto il mondo, che usano gli alberghi, che riescono a mettere in movimento anche altri interessi, sacrificando un paio d'ore, anche fosse una serata, riuscire a far funzionare i giardini. Tra l'altro, Mingozzi, tra l'altro noi diciamo giardini pubblici, uno pensa ai giardinetti, in realtà è un bene culturale, i giardini pubblici di Ravenna lo sono a tutti gli effetti. Sì, è un bene culturale che si affaccia tra l'altro al MAR, Museo d'Arte di Ravenna, che già da alcuni anni consente di svolgere per esempio matrimoni, buffet, cerimonie all'interno e in questo caso l'abbiamo fatto all'esterno. Io non penso, sono venuti da me alcuni cittadini che hanno chiesto ragione di questa chiusura al pubblico, ma è stata un'occasione, una tantum che abbiamo fatto proprio in virtù di una sensibilità che abbiamo ricevuto da questa azienda. Io sono convinto che i beni pubblici più sono pubblici e più interpretano il loro ruolo, però ogni tanto quando ci sono occasioni anche di carattere economico, non è che risolvono i problemi del comune o di Ravenna o della Fondazione Ravenna Festival, ma ci danno un segno di attenzione di imprese che sono fondamentali ormai per l'economia anche degli enti pubblici, io penso che non sia un grande sacrificio rinunciare un paio d'ore di serate. E tutto sommato, se ce la facciamo tra virgolette amica, questa è un'impresa che tutti gli anni porterà a Ravenna ricchezza. Ecco, il problema della ricchezza si può vedere la medaglia a doppia faccia. Io vedo sempre gli aspetti positivi. Naturalmente non stiamo svendendo. Sì, poi aggiungo Mingozzi, perché insomma, questi quella sera hanno portato tutti i loro dipendenti che hanno dormito negli alberghi di Ravenna, e quindi c'è tutto quell'indotto là. Allora io voglio ricoinvolgere a questo punto il professor Montanari, perché sinceramente, sentito quello che dice la Biagiotti, sentito quello che dice Mingozzi, anche con questo dout des interessante, perché insomma io ti concedo i giardini pubblici e tu in automatico questi soldi di fatto nemmeno passano da me, vanno direttamente al festival e vanno all'apertura dei giardini pubblici fino a mezzanotte negli altri orari. Continuo a non cogliere, scusate, io sembrerò da questo punto di vista un conduttore schierato, mi perdonerà professor Montanari, però continuo a non cogliere il problema. Vedo abbastanza schierati tutti insieme. Dunque, allora, bisogna distinguere un giardino da un ponte. Io, se lei mi citi una città europea moderna, visto che questo piace molto, in cui si chiude un ponte con l'aspetto. Quindi pratico, sui giardini lei sarebbe. Mi scusi Montanari, quindi sui giardini lei sarebbe d'accordo? Nei giardini anche pubblici, in certe condizioni, da sempre avvengono feste anche private. Bisogna farlo, come dire, col consenso della comunità e in un modo che sia civile, ma su questo è ben diverso da chiudere un ponte o una piazza. La piazza è un ponte, è un luogo identitario, è un luogo di passaggio, è un luogo, poi Ponte Vecchio è un simbolo della città. Avere persone che banchettano su un posto, mentre in un giardino si fa una festa, un ponte non è fatto per fare una festa, avere un ponte in cui la gente sta a cena con ai lati buttafuori che tengono fuori i fiorentini è un simbolo molto forte in un momento in cui il mondo è spaccato in due comunità, sempre più piccola quella dei ricchi, è sempre più protetta e sempre più allarga e indifesa quella di chi è più povero. C'è un impatto, diciamo, proprio culturale assai diverso in un ponte e in un giardino. Quanto a quello che ha detto l'assessore Sara Biagiotti, mi stupisco molto che siamo ancora a questo livello di provincialismo. Il Louvre è un museo che racchiude tutta la Francia, non esiste un Louvre italiano. Questo raffronto è fatto da qualcuno che non sa esattamente ciò di cui parla, e tra l'altro la bigliettazione del Louvre copre il 30% insieme anche al merchandising, il 70% dei fondi con cui Louvre vive sono trasferimenti pubblici, perché da che mondo è mondo, ci piaccia o no, la cultura è, come dire, il dividendo, il risultato finale di un investimento economico, non è mai il contrario, non si può sfruttare economicamente la cultura. Nella cultura, nel patrimonio artistico, le nostre generazioni della storia dell'arte, della storia semplicemente dell'Europa, hanno immobilizzato una grande massa di denaro ottenendo dividendi che non sono economici, perché forse non si vive di solo pane. Oggi noi vorremmo invertire il flusso, ma certamente il paragone con il Louvre mi sembra improprio. Poi c'è un altro aspetto per Ponte Vecchio e in generale. È stato scritto che l'affittuario di Ponte Vecchio, Montezemolo, non era uno qualunque. Italia Futura ha avuto dei rapporti stretti anche con Renzi e ce l'ha tuttora politicamente. In questa gestione privata del patrimonio pubblico non si dovrà stare anche attenti ai rapporti fra chi affitta da una parte e chi paga l'affitto dall'altra? Non c'è un uso privato anche in questo senso, in cui un sindaco così lanciato in politica usa la città come un suo salotto privato intessendo alleanze? E siamo davvero convinti che 100.000 euro siano molti, 120.000 euro siano molti? Io credo che siano ben altri canoni. Il Louvre ha ottenuto alcuni milioni affittando solo un portico, e non perché nelle sale del Louvre queste cose non si fanno. Insomma, mi sembra invece che sia molto provinciale questa idea di svendita al taglio, sempre con giri assai poco chiari delle nostre città, che non sono fatte per questo, ma sono fatte per creare cittadini consapevoli e adulti. Mi sembra proprio una perversione del senso storico delle nostre città. Professor Caroli, lo ricordo, docente di economia e gestione dell'impresa alla LUIS, è la persona giusta, perché anche un ascoltatore mi scrive su Facebook, forse poteva chiedere un po' di più. Secondo lei 100.000 euro è una buona cifra? Ma adesso io non credo che esista, come dire, un tariffario. A me sembra che 120.000 euro siano un ottimo risultato. Poi naturalmente si può vedere in futuro se ci saranno altre realtà che saranno disposte ad investire di più, perché vede, ripeto, tutto questo si può fare anche a livello internazionale, si può utilizzare per attrarre investitori internazionali che venendo ad investire, o se preferisce a spendere, sul nostro patrimonio culturale, sia pur per poterne usufruire momentaneamente per fini privati, possono poi scoprire la città, scoprire opportunità di insediamento nel territorio. Sono trainanti di un'immagine della nostra città, dei nostri beni culturali. E quindi poi magari nel tempo anche aumentare questo tipo di entrate. Ecco, ricordiamo che accanto al beneficio dei 120.000 euro, che sono un beneficio pubblico per la comunità, cioè la comunità è stata evidentemente ripagata del sacrificio momentaneo di non poter eventualmente passare per Ponte Vecchio. Ecco, a fronte di questo, poi c'è tutto un effetto di immagine positiva che viene dato a persone che sono indubbiamente ricchi e che quindi hanno dei privilegi, e sono perfettamente d'accordo che in questa fase storica bisogna anche tenere conto delle frustrazioni tra chi è privilegiato, cioè di chi non è privilegiato rispetto a chi lo è. Però attenzione, perché la ricchezza, se ben utilizzata, è la base per attivare meccanismi di sviluppo. Nessuno sviluppo ci può essere senza risorse, senza ricchezza ben investita. Detto questo, l'altro aspetto che credo sia fondamentale è considerare che è doveroso da parte di chi gestisce un bene pubblico riuscire a gestirlo producendo esso stesso da quel bene pubblico delle risorse. Faccio un esempio, secondo me molto importante, che è il Parco della Musica di Roma, che a 10 anni dal suo avvio, già dopo 5 o 6 anni, riesce ad autofinanziarsi per 2/3 del suo budget, cioè il 66% delle spese complessive per l'enorme cartello di attività del Parco della Musica, di musica classica, di jazz e quant'altro, viene autofinanziato. E viene autofinanziato in parte con i biglietti, ma in buona parte con le sponsorizzazioni che non sono, come dire, gratuità che le imprese danno, perché poi oggi anche le grandi imprese hanno grossi problemi di budget e quindi quando sponsorizzano vogliono avere qualche cosa in cambio e chi gestisce il Parco della Musica crea dei problemi, scusatemi, dei programmi insieme con i propri sponsor in maniera tale da creare valore per questi sponsor e poi anche in quel caso l'affitto degli spazi. Quindi insomma, voglio dire, mi pare che a livello internazionale, ma anche nel nostro paese, si stia andando finalmente verso una gestione con una logica anche privata, che non significa di interesse privato, ma di realizzare risorse da una gestione intelligente del bene culturale in maniera tale che questo possa svolgere al meglio il suo primo obiettivo, che tutti siamo ovviamente d'accordo, è un obiettivo di natura sociale e appunto culturale, cioè la massima diffusione, la massima inclusione di tutti nel beneficiare di quel bene e della cultura che è sottostante. La fermo. Ornella Dezzordo è ancora con noi, vero? Sì, beh, voglio, ho Benissimo, sentito. benissimo, Mi ottimo. conforta Aspetti, aspetti, aspetti, aspetti. l'intervento. La fermo perché abbiamo una pausa. Abbiamo una pausa. Dobbiamo sentire cosa succede su strade, autostrade e poi ritorno da lei. La voglio sentire bene perché sennò poi il professor Montanari dice, insomma, qua sono tutti schierati da una parte. No, insomma, come sente? C'è anche un altro ospite che la pensa come lei, professor Montanari. 9 in punto. Eccoci qua, dunque, Ornella Dezzordo, consigliere comunale a Firenze della lista per un'altra città. Io poi riprenderò anche a proposito di Firenze Sara Biagiotti tra un attimo, perché secondo me un minimo di risposta a quello che dice il professor Montanari dal punto di vista puramente politico, ossia la questione Renzi-Montezemolo gliela devo far dare perché, insomma, se no rimaniamo là solo con le affermazioni appunto del professor Montanari. Dunque, Dezzordo, allora innanzitutto le chiedo un commento a quello che ha sentito. La seconda domanda è un filo di percezione. Sento, ho sentito un filo, giusto un filino, eh? La percezione, come dire, insomma, ricco è cafone e quindi affittargli Ponte Vecchio non va bene. C'è un pochino anche questo, o no? Ma non so dove l'abbia sentito. Allora, onestamente sono altri parametri, sono quelli. Mi conforta l'intervento, devo dire, di Tommaso Montanari, perché insomma ha detto dei concetti molto chiari che nulla hanno tra l'altro a che vedere con la cafonaggine dei più o meno ricchi, almeno io non ho colto questo. Ma vorrei aggiungere a quello che è già stato detto, dico. Allora, intanto forse va sgombrato il campo da un equivoco, perché qui non si tratta di aver fatto un'operazione i cui proventi vanno per la valorizzazione o per il restauro, il mantenimento di un bene culturale, ma neanche per sogno, perché se andate a vedere come io ho fatto esattamente cosa succede di questo introito che il comune ha, insomma, di questa cifra, noi vediamo che ci sono semplicemente 13.000 euro per il restauro di una terracotta. Quindi allora cominciamo a fare un po' le proporzioni, perché sennò sembra che qui sia stata fatta una magnifica operazione in tal senso. No, è una cosa diversa. E in realtà questa cifra entrerà nelle casse del comune e andrà a finire non so ancora dove, perché ancora non abbiamo a disposizione il bilancio preventivo, quindi sapremo poi dove saranno andati. Ma quello che è certo è che per quello che viene chiamato il restauro, il mantenimento dei beni culturali, è solo questa piccola parte. Detto questo, mi viene un po' da ridere, perché quando sento anche l'assessore Biagiotti che dice che bisogna valorizzare, no, questa parola, valorizzare i beni culturali, ma assessore, i beni culturali si valorizzano da soli, cioè non è che il Ponte Vecchio, se non c'era la cena della Ferrari, era meno valorizzato. Mi viene da dire forse è in questo modo che viene svalorizzato, perché viene messo, ripeto, viene trattato come un qualsiasi altro bene, una merce, diciamo così, di lusso, di cui può godere in maniera appunto esclusiva chi se lo può permettere. Quindi è proprio il contrario dell'atteggiamento. Certo, io leggo anche, andando un po' lavorando appunto in consiglio comunale, o a disposizione ovviamente anche degli atti, leggo che proprio oggi giovedì, mi corregga se sbaglio come giorno, ma questo è quello che appare, diciamo, e l'assessore Biagiotti inaugura, e cito tra virgolette, il percorso di realizzazione di un brand della città in prospettiva di una politica di sfruttamento commerciale del brand stesso, chiuse virgolette. Ora, se è questa la logica per cui noi dobbiamo preoccuparci di sfruttare un marchio, brand, come se Firenze non fosse già di per sé quella città che attira milioni e milioni di turismo, se pensiamo che dobbiamo inventarci questo tipo di attrazione, cioè veramente allora davvero il concetto di provincialismo va recuperato. Tra l'altro, dico, dovrebbe un'amministrazione preoccuparsi invece di gestire al meglio questa grande fortuna di avere i milioni di visitatori di questa città. E allora è lì che si invita il turismo anche a crescere. Dezordo, chiarissima. Abbiamo ancora 2 o 3 minuti e quindi io devo far rispondere molto brevemente all'assessore Biagiotti. Siamo finiti un po', devo dire la verità, sulle beghe fiorentine, anche se questa questione dello sfruttamento del marchio della città non è male, interessante come argomento, non ho detto che è interessante perché insomma mi interessa, perché ne sono convinto, è un argomento interessante. Allora, intanto saluto il professor Tommaso Montanari e il professor Matteo Caroli e gli dico vi riconvoco sicuramente, perché su questi temi, magari non proprio su Firenze, ci torniamo. E saluto anche Gian Antonio Mingozzi. Chiudiamo invece Ornella Lezzardo, chiudiamo invece con Sara Biagiotti, proprio a rispondere a 2 questioni. La prima era sollecitazione del professor Montanari sulla questione più puramente politica, e la seconda era quella di Dezordo su quest'altro tema interessante sul quale magari torneremo prima o poi, che è lo sfruttamento del marchio della città. Allora, sulla questione politica sollecitata dal professor Montanari, è evidente che il professor Montanari ha una visione politica diversa, no, di quella del sindaco di Firenze. Io penso che non si possa criminalizzare il lusso quando una città come Firenze, io sono anche assessore al lavoro, alle sue aziende, le sue più grandi aziende del territorio che vivono nel lusso e producono per il lusso. Pensiamo a Gucci, a Ferragamo, pensiamo alla Montblanc, che è un'azienda francese che ha messo la propria azienda, posizionato la propria azienda nel territorio fiorentino proprio perché qui è un territorio di eccellenza. Pensiamo all'investimento che Gucci ha fatto sul marchio Richard Ginori e sulla fabbrica Richard Ginori, salvando 230 posti di lavoro. Sono aziende del lusso che vendono i prodotti evidentemente a persone che hanno potenzialità di spesa, quindi noi non possiamo criminalizzarlo perché è la nostra città che è un luogo nel quale le nostre eccellenze devono essere valorizzate. E tutte quelle le insinuazioni che il professor Montanari faceva in riferimento a Montezemolo, io credo che siano totalmente fuori luogo. Montezemolo e la Ferrari, in particolare la Ferrari, è il primo marchio riconosciuto nel mondo e quindi come tale Firenze, che è la città, lo dico da fiorentina, più bella del mondo, se si lega a un marchio come Ferrari è certamente un fatto positivo. Sulla questione del brand, il brand della città di Firenze è un percorso già avviato che sta andando avanti ed è un percorso che farà riconoscere attraverso un marchio la città, che potrà essere utilizzato anche da tutti gli operatori, non solo dal comune, ma dagli operatori e quindi dalle aziende che lavorano. Vi devono pagare, brevemente, abbiamo 10 secondi, vi devono pagare le royalties, Biagiotti? Quando sarà finito il percorso avremo il brand, certamente. Grazie anche a Sara Biagiotti, gli altri li ho già ringraziati e ripeto, se Montanari e Caroli vorranno tornare in onda mi farà piacere proprio per dibattere di questi argomenti. Grazie ad Alessandro Marco Tulli in redazione, a Paolo Corleoni in regia, grazie a tutti voi per l'ascolto, ci sentiamo domani se volete con Votantonio oppure naturalmente lunedì con 9 in punto. Ricordati! Mancano 86 giorni all'aumento dell'IVA.